Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Una volta ne ho visto uno in un acquario che arrivava dritto verso il vetro cristallo, si spiaccicava senza alcuna conseguenza, serenamente sul vetro come se fosse una di quelle forme di pasta per le pizze, talmente è molle. Buonasera, benvenuti a Mebius, fra poco parleremo dei lamantini, ascoltiamo i titoli. Per la prima volta in Italia arrivano i lamantini. Chi sono, cosa fanno e dove vanno? Lo saprete fra pochi secondi. Un gruppo di astronomi europei sta percorrendo 5.000 km sulle montagne di Cile, Perù e Bolivia per mostrare il cielo alle popolazioni andine. Siamo ai primi piccoli circuiti, ma la ricerca procede con notevoli progressi. In un convegno a Roma si è parlato dei computer quantistici. Il cielo spiegato ai bambini. Un'iniziativa della Regione Toscana regala a tutte le classi di quinta elementare i componenti per costruire un telescopio. Robot, carote e venditori di snack alternativi. Questi i personaggi di due eventi a Bergamo Scienza. Dolce è la matematica, dura è la vita. Daniel Bernoulli e l'equazione dei fluidi. L'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali chiede al ministro di garantire nella riforma del 2010 la formazione scientifica di base nelle scuole. Lamantini o manate, forse li conoscete anche così. Ne abbiamo due per la prima volta in Italia e Chiara Albicocco adesso ve li presenta. Ma se chiediamo che cos'è un lamantino... Allora, lamantino è praticamente la guccia, cioè la gruccia. Non lo so, una cosa che si mangia? Lamantino? Boh. Penso che sia una cosa da mangiare. Non lo so, e deve essere una cosa importante. Tipo, vabbè, si beve. Tipico, è un ballo. È latino sicuramente. È estinto il lamantino. Certo che so cos'è un lamantino. È un animale. Tipo, è un lamantino. Il lamantino sta... Nuota il lamantino. E questo lamantino è un tessuto per fare dei tendaggi, delle il cose. Il lamantino? L'animale. Nel bosco. Io conosco solo Lamantino Mancini, dell'ex giocatore della Roma. Sembra proprio che i giovani protagonisti della Milano da bere non abbiano le idee chiare su cosa sia un lamantino. Vuoi per l'euforia del weekend dopo una settimana di lavoro, vuoi per l'effetto del secondo, del terzo cocktail, vuoi anche perché il lamantino è davvero così poco conosciuto alle nostre latitudini che qualcuno ci deve svelare l'arcano. Insomma, chi è questo lamantino, dottoressa Gili? Si tratta di mammiferi acquatici molto grandi. Ecco, buonasera Claudia Gili, lei questa sera è qui con noi per raccontarci dei lamantini. Lei li conosce molto bene da vicino, nonostante sia italiana, perché è la curatrice dell'acquario di Genova. Dunque, qual è la novità, dottoressa? Sono arrivati questi due esemplari nati in uno zoo europeo e sono arrivati da circa una ventina di giorni. E adesso si stanno acclimatando. Ecco, ci racconti come sono fatti? Sono, per chi li conosce e lo sa, sono degli animali davvero buffi, molto simpatici. Sono animali molto grossi, un po' sproporzionati, secondo me, rispetto alle pinne. La testa è piccolina, la coda è arrotondata. La coda ha forma come se fosse una sirena, infatti appartengono ai sireni, forse perché ricorda la coda di una sirena nel nostro immaginario. In realtà la sirena è ricordata di più dai dugonghi, che sono loro cugini stretti, mm-hmm. E sono animali molto simili che vivono però Indo-Pacifico, mentre i lamantini hanno la coda arrotondata, tipo una grossa pala arrotondata, e vivono la coda del castoro, ecco. Una cosa proprio tonda ma grossa, ecco. È larga 50 centimetri, 80 centimetri. E vivono ai tropici? Vivono Centro Sud America e Africa. Sono animali che vivono sia in zona marina che di estuario che in acqua dolce e sono totalmente vegetariani. Ah, ecco. Brucano alghe, piante, fiori, radici, verdure varie e noi li stiamo cibando con tutte le verdure possibili. Assomiglia un po' al delfino un po' più cicciotto? Diciamo che assomiglia di più a un tricheco, secondo me. Però c'è poi il problema che il tricheco ha due zampe posteriori, mentre loro hanno la coda. anche l'occhio è molto diverso, il collo è molto più tozzo, il corpo è tozzo di questi animali. Quanto non pesano molto... gli esemplari che avete lì in acquario? Sui 350-380 kg. Infatti anche i piccoli quando nascono pesano qualcosa come 30 kg. Sì, anche di più, anche di più. Sono degli animali veramente particolari. Sì, sì. Diceva che arriva da uno zoo europeo, da dove li avete presi? Questi arrivano da Norimberga, da dove sono nati. Ecco, mi scusi, come si fa a trasportare un lamantino da Norimberga a Genova? Beh, intanto come fai a prenderlo dalla vasca, con dei contenitori particolari tutti bucati, come dei grandi, grandi retinoni. Però sì, perché 300 kg. Sì, e poi dopo viene inserito in questa cassa che è tutta imbottita, tipo le stanze dove si fanno le anestesie per cavalli, che hanno tutti i materassi intorno, no? E poi si riempie di acqua questo contenitore e si trasportano in acqua col camion, perché arriva, si prende una gru e si rimettono dentro l'altra vasca. Beh, è stata una bella operazione. È un'operazione che è durata, è iniziata alle 4 del pomeriggio ed è finita alle mezzogiorno del giorno dopo. Caspita. Viaggio incluso, via terra ovviamente. E senta, poi come sono stati accolti dal pubblico e soprattutto dai bambini? Beh, diciamo che la gente è curiosa, per cui non si rende conto di che cos'è, oppure alcuni addirittura pensano che siano ancora le foche e poi non, vedono che non sono le foche, allora dicono ma cos'è, allora iniziano a leggere. E noi abbiamo messo anche un filmato del trasporto vicino alla vasca, anche per far capire un po' l'importanza di questa tipologia di lavoro. E pian pianino poi, quando vedono la forma, il muso, il movimento, che è tutto diverso, iniziano a chiedere, chiunque resta affascinato. Davvero. Ecco, ma nel loro ambiente naturale sono specie a rischio? Assolutamente sì, e normalmente perché condividono alcuni degli spazi in cui vivono con noi, per cui in pratica devono subire tutto l'impatto antropico, vuoi che sia la gestione dell'acqua con le dighe, per cui loro restano all'asciutto in alcune zone perché gliele abbiamo prosciugate, vuoi che sia il fatto che vengono travolti da imbarcazioni da diporto con eliche, e quindi essendo molto miti, vivendo in superficie, rischiano proprio di essere tagliati a pezzi dalle eliche delle imbarcazioni, oppure da inquinamento costiero che arriva da sotto costa. Loro brucando si mangiano tutti i rimasugli dei liquami e di quello che viene espulso a livello di terreni e agricoltura e inquinamenti vari. Insomma, è un po', ha un po' di nemici. Eh sì, poi probabilmente non sono molto agili anche con un peso così. Sono veloci quando si spaventano, se danno la codata si spaventano, scappano via. Sono veloci, sono forti, sono animali potenti. Però è vero, l'agilità non, diciamo che non è una delle principali caratteristiche. E poi sono molto pacifici come animali, cioè il delfino, prima mi chiedeva, il delfino è un animale molto attivo, dinamico, certo. Questi sono erbivori, sono come le vacche, brucano in continuazione. Pacifici. Per cui... Sì, sì, sì, passano ecco. Metà della vita a mangiare, a brucare, e metà della vita a dormire. Ecco, speriamo che chi li vede lì da voi a Genova, che è l'unico posto in Italia dove si può incontrarli, possa in qualche modo essere sensibilizzato anche alla salvaguardia di questi animali. Va bene, dottoressa, allora insomma ci dobbiamo assolutamente vedere a Genova. Ok, perfetto, benvenuta. Grazie e buon lavoro. Arrivederci, grazie. Paola, ma sei tornata in Cile adesso? Ma magari, guarda, no, sono sempre a Boston. Sei sempre a Boston, no, perché raggiungendoti via Skype e sapendo che dobbiamo parlare di ande cilene, pensavo fossi laggiù. No, io sono ancora a Boston, però c'è un gruppo di studenti europei, sudamericani, tra cui un'italiana, che sono in Cile. Sono appena partiti per una bellissima avventura. Che si chiama Galileo Mobile, e questa volta parliamo un po' anche più da vicino del tuo territorio, perché è un'iniziativa sponsorizzata principalmente dall'ESO. Esattamente, dall'ESO, che è l'organizzazione europea che ha vari telescopi in Cile, e l'ha organizzata in occasione dell'anno internazionale dell'astronomia. Allora, senti, questa Galileo Mobile praticamente percorre tutti i grandi altipiani dei paesi andini. Allora, la Galileo Mobile è, diciamolo che è un van, E sta viaggiando nell'altipiano andino tra Cile, Bolivia e Perù. Quindi proprio i punti più alti. Sono lì, è difficile scendere sotto i 3000. Sì, è difficile. Tutto il viaggio sull'altipiano è in altitudine. Però non per fare delle osservazioni astronomiche autonome dell'ESO, ma per farle fare alla gente. Sì, l'idea è quella di offrire delle attività astronomiche agli studenti e al largo pubblico in questi paesi e villaggi che altrimenti rimarrebbero sempre isolati. Queste sono popolazioni molto, molto interessanti, molto curiose, estremamente pacifiche, molto colorate nei loro vestiti e sono anche popolazioni che difficilmente scendono da lassù. Sì, questo è vero. E dobbiamo dire che hanno una fortissima eredità astronomica che risale alle civilizzazioni precolombiane Inca e Tiwanaku. È vero, noi ne abbiamo anche già parlato, a Möbius ci sono anche delle rocce sulle quali si vedono antiche mappe del cielo ed erano loro, i loro antenati che le facevano. Sì, è vero, infatti hanno anche moltissime leggende che sono ancora vive. E l'idea di questi studenti con la Galileo Mobile è quella, sì, di incoraggiare l'interesse per la scienza attraverso l'astronomia, ma anche quella di fare un po' uno scambio culturale, diverse visioni sull'origine dell'universo, per esempio. Ma non è che finiranno per litigare, perché loro hanno tutte le loro storie, le loro leggende, le loro teorie, Ma per ora sembra che si stiano integrando molto bene. È partita da 2 settimane, non ci sono problemi. Sì, non ci sono problemi. Il viaggio durerà 2 mesi, percorrerà 5.000 chilometri e stimano di raggiungere più o meno 15.000-20.000 persone. Che, ricordiamolo, per quelle zone sono tante. Per quelle zone isolate è veramente molto. Non vivono in tanti. E ci daranno forse qualche documento poi come risultato di questa spedizione? Allora, c'è una troupe televisiva che sta seguendo la Galileo Mobile e preparerà un documentario multimediale. E poi chi è interessato può controllare su Facebook e su Twitter i vari aggiornamenti. Ci sono aggiornamenti, ci sono delle belle fotografie, dei brevi video in cui raccontano appunto questo viaggio. Tra l'altro bisogna dire che il van è equipaggiato per fare comunque delle osservazioni astronomiche, sia di notte che di giorno, per osservare il sole. Per osservare il sole. Senti, possiamo anche dire che cercheremo, non so se ci riusciremo, di entrare in contatto con qualcuno di loro mentre sono lassù. Sì, proviamo a sentire Silvia Bonoli, che è appunto l'italiana coinvolta in questo progetto, e speriamo che ci voglia raccontare qualcosa. Ciao Paola. Ciao, buona serata. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Questa puntata è dedicata ai lamantini e quindi anche il nostro gioco, il quiz, è su di loro. La domanda è la seguente: quale dei seguenti comportamenti del lamantino è un comportamento vero, reale? Vuol dire che gli altri due sono falsi. Prima risposta: dorme al massimo 20 minuti trattenendo il respiro e adagiandosi sul fondo. Ci scriverete dormire. Seconda possibilità: non teme predatori, ma ha solo molto timore dei granchi che lo pinzano con le chele. Poiché il lamantino ha una pelle molto tenera, la cosa, lo si capisce, è seccante. Ci scriverete granchi. Terza possibilità: quando esce dall'acqua, vi ricordiamo che è un po' come un tricheco, il lamantino a volte si adagia su del terreno fangoso e si impantana, dovendo aspettare l'alta marea per disincagliarsi. Ci scriverete marea. Allora, dove scriverete? Con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è La passeggiata dell'ubriaco, le leggi scientifiche del caso, di Leonard Mlodinow, edizione Rizzoli. In collaborazione con IBS.it. Un paio di settimane fa, all'Università La Sapienza di Roma, presso il Dipartimento di Fisica, c'è stato un importante congresso internazionale dedicato all'ottica quantistica. Ho ospite questa sera a Möbius Paolo Mataloni. Buonasera Mataloni. Buonasera a tutti. Docente al Dipartimento di Fisica, in particolare lei fa ricerca appunto in questo campo, quello dell'ottica quantistica. Siamo nel campo della meccanica quantistica, questa teoria fisica certamente non banale da comprendere, che però negli ultimi anni è diventata, se non altro insomma, come conoscenza dell'esistenza, diciamo, di questa teoria, qualcosa di abbastanza diffuso. Il convegno che avete fatto è uno di quei convegni grossi in cui riunisce tutto il meglio del settore, no? Sì, diciamo, il convegno, che è un convegno per la precisione, diciamo, di informazione quantistica, in cui le tecniche ottiche quantistiche sono una delle componenti, diciamo, è un convegno istituzionalmente di tipo europeo, però è aperto ai contributi di scienziati che provengono da tutti i continenti. Allora, senta, vediamo se riusciamo a sbrogliare qualche cosa di questa teoria che appare a tanti così strana, ma che però, ecco, mentre noi adesso stiamo parlando e mentre la gente ci sta ascoltando, le cose che questa teoria dice sui fenomeni fisici stanno avvenendo. Tutta l'elettronica, insomma, per quanto questa teoria sia molto strana, di fatto è fortemente influenzata dalle cose che questa teoria ci dice. Voi, per esempio, parlate di computer quantistici, sì, che dovrebbero essere molto, ma molto più potenti di quelli che usiamo noi. Però mi viene da dire, sono così diversi, però quando li avremo saranno computer con una tastiera e un monitor, immagino. Dunque, è difficile rispondere in maniera precisa a questa domanda. Vorrei dire un attimo una cosa come premessa. Diciamo, l'idea di realizzare un computer quantistico, cioè un computer che sfrutti le leggi della meccanica quantistica per il suo funzionamento, parte da un'intuizione geniale di Feynman negli anni '80, il quale appunto pensava a un sistema che fosse in grado di simulare in maniera non classica ma quantistica degli esperimenti dei fenomeni fisici. Diciamo, di base, quello che possiamo dire è che mentre un computer classico utilizza come elemento di informazione fondamentale il bit, che può assumere due valori esclusivi l'uno rispetto all'altro, 0 o 1, sì, e questi 0 o 1 si possono realizzare in vari modi dal punto di vista classico, caricando un condensatore, scaricandolo e così via, diciamo, un eventuale computer quantistico utilizza il bit quantistico, il quantum bit, altrimenti detto qubit, che è rappresentato da un oggetto microscopico che può essere un fotone, un atomo, uno ione, cioè in particolare è rappresentato dagli stati che può assumere una particella di questo tipo. Per esempio, immaginiamo la polarizzazione di un fotone che può essere verticale, orizzontale, circolare destra, circolare sinistra e così via. Allora, senza entrare troppo nei dettagli, la peculiarità è la seguente, che mentre dal punto di vista classico noi abbiamo due valori esclusivi che possono essere immagazzinati, 0 e 1 che diceva lei prima, esatto, quindi acceso spento, per acceso esempio, spento, on off, diciamo sì, sì no, cose sì, di no, questo tipo. Ecco, invece nel caso di un computer, di un qubit, la meccanica quantistica ci dice proprio che noi possiamo esprimere un qubit come una combinazione lineare, si dice in termini matematici, di zero, dello stato 0 e dello stato 1, cioè in altre parole sono accessibili e sono immagazzinabili non solo i due valori 0 e 1, ma tutti i valori, tutto l'insieme di valori possibili compresi tra 0 e 1 attraverso degli opportuni coefficienti. Faccio un esempio molto breve. Immaginiamo che noi vogliamo creare un registro di dati costituito, che vogliamo immagazzinare, da 3 bit. Dal punto di vista classico, lavorando in termini 0 e 1, noi possiamo scegliere, possiamo praticamente immagazzinare una sola delle 8 combinazioni di 0 e 1. Perché sono 8? Perché sono 000, 001, 010 e così via fino a 111. Invece la meccanica quantistica ci garantisce di immagazzinarli tutti e 8 insieme. Qui l'esempio capisce che da 1 passiamo subito a 8, ma perché abbiamo solo 3 bit. Se i bit invece di 3 sono 30 o 100 o 1000, questo numero, questa capacità di immagazzinamento cresce in maniera vorticosa, con legge esponenziale. Quindi più rapidità e molta più potenza. E molta più potenza, esatto. Allora, lei mi domandava che possibilità, cioè che configurazione avrà un computer quantistico nel futuro? Avrà una tastiera, avrà un monitor? Probabilmente sì. Sicuramente io non si pensa che sarà un computer da usare, da portarsi in giro con la macchina o altro, probabilmente sarà un oggetto dedicato a azioni specifiche, perché la potenza di calcolo sarebbe evidentemente mostruosa, per esempio sarebbe un ottimo simulatore di altre leggi fisiche, ma potrebbe avere anche delle applicazioni pratiche. Io mi manterrei un po' nel vago su come può essere, perché non lo sa nessuno, anche perché oggi esistono diversi approcci al computer quantistico. Cioè, questo l'ha testimoniato anche la conferenza appunto che abbiamo organizzato. Ci sono varie strade, la strada dell'ottica, lavorare con i fotoni oppure lavorare con gli ioni, con gli atomi. Quale sarà quella vincente? Quale arriverà prima? Quale sarà quella più conveniente? È difficile dire. Oggi siamo in grado, con varie tecniche, per esempio con i fotoni, di mettere insieme un numero di qubit minori a 10. Con gli ioni stiamo intorno ai 10, nel giro di qualche anno si potrà arrivare a 20. Sono ancora numeri piccoli. Abbiamo creato i primi gate logici, sono i mattoni elementari, ma siamo ben lontani dal dire che abbiamo un computer quantistico, ma è una cosa che realisticamente potrebbe essere ottenuta nel giro forse di un paio di decenni, forse tre. Mi pare che possiamo dire, Mattaroni, per vedere di spiegare ancora meglio la cosa, che in fondo quello, la ricerca su cui voi vi state muovendo è una naturale conseguenza, perché noi siamo partiti 40-50 anni fa con dei computer che erano veramente fatti di interruttori, sì, tipo vero, quelli della luce, enormi, grandi, 1000 metri quadri, e facevano i conti che adesso si fa un orologio. Però ormai siamo arrivati a inevitabilmente affrontare il vostro campo, no? Certo. Quindi il problema è appunto questo, che ormai siamo arrivati a sistemi elettronici che lavorano con una manciata di atomi, con molto pochi, al limite con uno solo, e quindi è inevitabile, a quel livello valgono le leggi della meccanica quantistica, è inevitabile confrontarsi con esse, e quindi tanto vale prendere la sfida in positivo e sfruttare al meglio queste potenzialità, sempre tenendo conto che le possibilità, diciamo, di perdere queste informazioni perché il sistema si accoppia verso l'esterno per via termica eccetera, sono tali e tante che possono, ecco, questo non è facile da maneggiare con l'universo. No, e questo spiega anche la nostra incertezza, la nostra prudenza nel predire quando avremo un computer quantistico. Siamo tutti ormai convinti che ce l'avremo, ma ci sarà ancora molto da lavorare. Grazie Mattaroni e buona ricerca. Grazie a voi. Adesso Barbara Galamotti vi parla di un'iniziativa che, se tornate indietro nel tempo e raggiungete Galileo Galilei nel 1609, bene, avrete la sensazione di come cambino con il progredire della storia le vicende umane. Allora questa iniziativa sarebbe stata del tutto inimmaginabile. Il 2009 è stato l'anno internazionale dedicato a Galileo e in tutto il mondo si sono susseguiti festeggiamenti. Un'idea molto particolare è quella però della regione toscana, che ha deciso di festeggiare con un'iniziativa di cui è stato promotore l'astronomo Franco Pacini. Buonasera. Buonasera. Ci dice di che si tratta? Ma noi abbiamo pensato che la base dell'astronomia è guardare il cielo, e fra gli spettatori del cielo i più interessanti sono di solito i bambini, e quindi abbiamo dedicato un programma non solo in Italia ma anche in altri paesi ai bambini. Abbiamo sostanzialmente regalato a tutte le classi della regione toscana, alla fine del ciclo primario della scuola elementare, un telescopio. In realtà non gli abbiamo regalato un telescopio, gli abbiamo regalato la scatola di montaggio contenente le varie componenti per fare un telescopio, così che un bambino possa guardare la Luna e vedere quello che Galileo aveva visto. Quindi bambini delle elementari, nell'ottica di rivolgersi ai più piccoli, come fanno ormai tutte le nazioni che vogliono puntare sulla conoscenza scientifica per trainare il loro progresso. Assolutamente, l'astronomia è considerata un pochettino in questo percorso un cavallo di Troia. E la risposta è stata entusiasta. Un cavallo di Troia, perché nessun bambino può resistere alle stelle. Nessuna bambina possono resistere alle stelle. Il fascino del cielo stellato è impareggiabile. Molti di noi sono diventati astronomi per una vocazione, si dice così, nata quando avevamo 10 anni o giù di lì. E abbiamo voluto però che questo qui fosse il loro telescopio, averlo costruito, e quindi la scatola di montaggio contiene tutto quello che serve per costruire un telescopio uguale più o meno a quello di Galileo e poi utilizzarlo. E riteniamo molto importante questa parte, che lo costruiscano loro, perché l'astronomia non è una cosa che si deve semplicemente guardare o raccontare, ma anche qualche cosa, diciamo, che possa stimolare la curiosità scientifica in altri settori dove la manualità è un po' più importante. Ecco, ma dopo che l'hanno costruito, voi continuate a seguirli per l'utilizzo? Noi abbiamo anche organizzato, la Toscana, la regione toscana, diciamo, ha realizzato in questo una collaborazione con l'osservatorio di Arcetri, da cui vi parlo, ed è una collaborazione fondamentale, perché le maestre e i maestri non debbono spaventarsi. sono sicuro che dopo non molto tempo saranno i bambini a insegnare ai maestri e non viceversa. Ecco, Franco Pacini, ma lei è soddisfatto delle celebrazioni che abbiamo avuto per Galileo? In fondo c'è stata una grossa attesa per quest'anno di Galileo, essendo forse il genio scientifico italiano più celebre, più amato. Beh, certamente, diciamo, in ogni cosa si può fare di più e di meglio, diciamo, però la vastità dei programmi in tutti i paesi è stata enorme, diciamo. E noi in Italia abbiamo alla fine preso una rincorsa, mentre agli inizi c'era un ritardo, adesso c'è una rincorsa. E questo qui è uno dei gradini fondamentali. Ma guardate il cielo e soprattutto fate vedere il cielo ai bambini, perché così diventeranno scienziati. Non ha importanza che diventino astronomi, l'importante è che acquistino domestichezza con la scienza nelle sue varie aspetti. Che serve anche a chi non diventa scienziato, in fondo. Assolutamente, in fondo ne abbiamo bisogno. Grazie Franco Pacini, buonasera. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque, ve lo dicevo poco fa, robot, carote, venditori di snack alternativi. E snack alternativi, l'avete sentito anche nei titoli, si sono incontrati questi personaggi a Bergamo Scienze e noi ora ve ne parliamo. Iniziamo dai robot. Buonasera a tutti, è il primo torneo di robot calcio che facciamo a Bergamo Scienze. Una competizione tra delle squadre che provengono da città diverse, oltre alla nostra, che è il Polo Tecnologico Mozzali di Treviglio. Abbiamo delle squadre che provengono da Madrid, da Senden in Germania, da Grosseto e poi da Roma. Infatti c'è la Robocop competizione mondiale, quest'anno si è tenuta a Ganz in Germania, ma si stanno sviluppando anche dei tornei decentrati, come avete sentito, sempre con squadre che possono arrivare da diversi paesi europei. Alla Robocop mondiale partecipano anche istituti di ricerca universitari, ma anche squadre di istituti tecnici di scuole medie superiori. Bergamo Scienza, in particolare l'area dei giovani industriali di Confindustria, Confindustria è uno dei principali sponsor del festival, hanno deciso di iniziare da quest'anno con una appuntamento dedicato ai robot che giocano al calcio, quelli costruiti però appunto da istituti tecnici, perché, e il ragionamento fila, in questi istituti si formano giovani che poi dal punto di vista lavorativo restano nel territorio e quindi sviluppare la loro cultura tecnica e l'attenzione all'innovazione vuol dire far crescere la popolazione locale. Come sono fatti questi robot? Potete andare al nostro sito e vedrete delle foto, ma in sintesi vi dico che sono dei cubi 25 cm di lato C circa, con molte ruote che loro consente di muoversi in qualunque direzione. Hanno su un lato, quello frontale, una piccola insenatura nella quale cercano di far entrare la palla, e però in questa insenatura c'è un pistone che scatta ed effettua il tiro. Attenzione, i robot non sono guidati dall'esterno, se la devono cavare da soli, capendo dov'è la palla, la porta, gli avversari. Qui a Bergamo si giocava 2 contro 2. Si crea partecipazione da parte del pubblico? Beh, giudicate voi e sentite anche un paio di interviste che affrontano poi alcuni problemi tecnici. 8-4. 1 minuto e 45 secondi. Dai. Wow. 30 secondi. Bravo, portiere. Dai. Potete ancora farcela. Oh. Raffaele Nocerino del Treviglio, che è ovviamente la squadra locale, quindi sì. Sento un grande tifo. Il costo di questi oggetti, che ovviamente immagino siano pagati dalla scuola, insomma, ma Non solo, perché con i fondi scolastici chiaramente non riusciremmo a costruire dei robot, diciamo, di questo livello con i componenti che sono necessari. E quindi abbiamo per fortuna degli sponsor che ci permettono sia di costruire robot e sia anche di aiutare i ragazzi nelle spese, nelle trasferte che sono in giro per il mondo. Quest'anno era a Graz, era vicino, l'anno prossimo era a Singapore, quindi abbiamo bisogno di questi, diciamo, finanziamenti per coprire. Certo. Solo con quelli della scuola sicuramente non si riesce a portare avanti un'attività. Una macchina singola quanto viene a costare? Ma sicuramente una buona macchina con dei buoni componenti, almeno 2000 euro, almeno, senza contare poi le lavorazioni che chiaramente la maggior parte facciamo all'interno della scuola. Magari poi troviamo anche delle aziende che gratuitamente ci realizzano il nostro progetto. Si lavora tanto? Tantissimo. deve pensare che a Graz la manifestazione è durata 5 giorni, solo quelli, hanno lavorato dalle 8 di mattina alle 2 di notte per 5 giorni. Ma anche per costruirli va via tempo, questi ragazzi ci danno tantissimo tempo, perché i ragazzi si rendono conto che dalla teoria alla pratica, alla realizzazione di un progetto, c'è una bella differenza. Ecco, ma qui ci sono la squadra del Treviglio, ci sono 6 ragazzi, ma riuscite a farne lavorare anche altri? In genere lavorano almeno 10-12, lavorano in una squadra, questa è una parte della squadra, alcuni sono anche diplomati quest'anno, quindi sono qui come spettatori, diciamo, a vedere la partita. In genere quindi il gruppo è abbastanza ampio. Sono attività che facciamo in genere però al di fuori dell'orario scolastico mattutino, quindi nel pomeriggio. Quindi i ragazzi stanno a scuola anche il pomeriggio, però lo fanno con piacere, riscoprono il piacere di stare a scuola, la voglia di venire a scuola. Si lavora anche durante le vacanze di Natale, durante le vacanze di Pasqua e così via. Parlavamo con le squadre spagnole, i ragazzi lavorano mediamente, per un anno hanno lavorato 4-5 ore al giorno, 7 giorni su 7. E lì si vede la passione. E lì si vede la passione. Ogni tanto qualche robot sembra rompersi, inizia a girare su se stesso, però poi i ragazzi della squadra lo recuperano. Quindi, domanda, sono riparabili abbastanza facilmente? Senz'altro sono riparabili, perché i ragazzi hanno costruito i robot. Immagini se lei avesse costruito la sua macchina, sicuramente sarebbe dovuto mettere le mani quasi in ogni situazione. Delle volte i guasti sono gravi, diciamo, normalmente ci sono meno guasti, però questa è una partita di inizio, cioè i robot sono stati fermi 3 mesi, sono stati ripresi e... Certo. Qualche problemino possono averlo, però. Però la luce può essere un problema. Jacopo D'Annunzio, team manager di quale squadra? Robotoni e Robobuff. Allora, qui c'è un problema tecnico interessante, cioè i robot risentono di un'illuminazione che in questo caso non è esattamente quella che dovrebbe essere più omogenea, mi pare di capire. Qual è il problema? Diciamo, il problema è che la palla emette raggi di infrarossi, quindi tutte le lampade d'incandescenza emettono raggi infrarossi, anche lo stesso sole è un emettitore di raggi infrarossi, quindi diciamo che l'ambiente ideale sarebbe giocare con delle luci al neon, ad esempio, oppure luce di incandescenza, ma posizionare ad altezze 6-7 metri in modo che il disturbo viene attenuato dall'ambiente stesso. E questo vi costringe a settare il robot in modo da poter distinguere che cosa fate, in modo particolare l'emissione della palla? No, diciamo l'emissione della palla è continua ed è quel valore, quindi è inversamente proporzionale alla luce ambientale, ovvero più è alta la luce ambientale più il robot riesce a distinguere la palla, ma deve essere molto più vicina al robot, quindi perdiamo in distanza di visione della palla. È come se una partita di calcio reale viene disputata con la nebbia che si vede a 2 metri, quindi il portiere non vede la palla dall'altro campo. Questo, diciamo, paragonandolo a una partita di calcio reale, quello che succede. Ma voi non riuscite a mettere a posto i robot in modo che si possano sintonizzare meglio sulla palla? No, perché purtroppo è impossibile distinguere quale sia la fonte emettitrice di infrarossi, se la palla o l'ambiente stesso. Chi ha vinto il torneo? Beh, prima di tutto i ragazzi, c'era anche qualche ragazza perché il loro entusiasmo è proprio trascinante, e poi invece la classifica. Primo posto Complubot di Madrid, secondo posto il Von Neumann di Roma, terzo posto il Robo Magut di Treviglio. Attenzione che Magut nel lombardo della zona vuol dire muratore. E dopo i robot, operazione Carota, ve la racconta Sara Occhipinti. Bergamo Scienza approda allo spettacolo teatrale per scuole secondarie Operazione Carota, 3 atti per un'alimentazione sostenibile. Protagonisti della rappresentazione, 3 soggetti davvero stravaganti. Prima a calcare il palcoscenico, la carota transgenica. Tu sai quanta anidride carbonica producono il mango e la papaya tropicalissimi che tanto piacciono a zia Luisa? E soprattutto tu. Ti rendi conto che stai parlando con una carota alta 2 metri di 90 kg e per di più armata? Non ti pare sospetto? Seconda, a monopolizzare la scena, una signora rete da pesca, purtroppo per lei illegale. Io anch'io pescavo, ero la rete del capitano, la numero 1. Marinai grandi e grossi mi estraevano da una stiva tutta buia e angusta e da un'immensa nave mi adagiavano negli oceani. No, no, lasciatemi, bruti, cattivi. Ore, giorni, ad aspettare. E per finire, un curioso venditore ciociaro di snack molto particolari. Ragnetti ricoperti del cioccolato. Ore, cavallette. Cavallette fritte, dai, soccoli degli uni senza agrodolci. Te che poi, c'ha sete, poteva dirlo subito. Modalmente ci abbiamo succo de bucce de patate centrifugato, spremuta de sorcio. Sono proteine, sai, non è che... Questi bizzarri eroi sembrano, ma solo sembrano, attenzione, dare i numeri. Dall'altro però esprimono con precisione le cifre che accompagnano uno dei più gravi problemi dei nostri tempi, la globalizzazione agroalimentare. Anche perché dovete sapere che un chilo di carne è responsabile dell'immissione in atmosfera della stessa quantità di anidride carbonica che emette un'automobile in un percorso di 250 km. E richiede un consumo di energia pari a quella che servirebbe per tenere una lampadina accesa per 20 giorni, questo per fare un chilo di carne. Questi personaggi fanno sì divertire i ragazzi con un po' di comicità, ma li spingono, parola dopo parola, a porsi delle domande, a pensare ad un consumo critico e sostenibile. L'effetto sulla giovane platea non sembra affatto male. Non deve essere stato facile però miscelare con abilità drammatizzazione, ironia e rigore scientifico. Come nasce l'idea di trattare questo tema ce lo racconta Andrea Bellati, regista dello spettacolo e ricercatore della Fondazione Eni Enrico Mattei, ente di ricerca che promuove tutta una serie di attività di divulgazione scientifica per le scuole. L'idea di trattare l'alimentazione nasce sia dal fatto che fra un po' a Milano ci sarà appunto l'Expo in cui l'alimentazione sarà il tema portante, e il fatto anche che abbiamo percepito come la mancanza di cultura nella scelta e un consumo non critico, anche non necessariamente estremista, ma appunto nelle piccole scelte di che cosa comprare, inutile comprare dei limoni argentini quando, voglio dire, abbiamo la Sicilia o dell'aglio cinese, no? Ecco, stare attenti a piccole cose può sicuramente migliorare la qualità dell'alimentazione e in generale della vita. Ideatore e interprete di tutti i personaggi è stato Davide Gorla, attore e doppiatore per la Fondazione Eni Enrico Mattei. I personaggi, le caratterizzazioni le ho scelte io. La cosa divertente è quando scontriamo il lato drammaturgico con il lato scientifico e dobbiamo mescolare le due cose, mantenendo comunque l'attendibilità assoluta delle informazioni che diamo, senza necessariamente stravolgere la struttura del testo, dei monologhi in questo caso. E lì ovviamente un lavoro faticoso in cui comunque bisogna riuscire ad incastrare le cose senza togliere né all'una né all'altra parte. Lui è attore ed è l'ideatore e io invece mi sono occupato della parte scientifica, perché comunque un testo di teatrale, di divulgazione scientifica, ha necessariamente bisogno sia della parte appunto teatrale, quindi divertente, il personaggio, e qui Davide è assolutamente maestro, e dall'altra parte gli argomenti devono essere rigorosamente trattati, per cui se dai un dato non deve essere inventato, ma deve essere quello. A giudicare dalle facce entusiaste dei giovani spettatori, questo sforzo è stato premiato. Ora ci auguriamo solo di non arrivare a sperare di reincarnarci scarafoni nelle prossime vite future. Magari se sta bene, perché se in un futuro neanche troppo lontano la Terra non sarà più abitabile per l'uomo, ma loro se la passeranno benissimo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il quiz sui lamantini e la soluzione. Allora, la terza risposta è sbagliata, perché il lamantino, anche se assomiglia molto a un tricheco, però non esce mai dall'acqua e quindi non può impantanarsi. Allo stesso tempo i granchi non lo preoccupano minimamente, anche perché costoro, quando vedono arrivare un siluro ciccione lungo 4 metri del peso di una tonnellata, pensano a tutto tranne che a pinzarli con le loro chele. Quindi la soluzione era la seguente: il lamantino tira su una bella boccata d'aria, si adagia sul fondo e dorme per una ventina di minuti. La famiglia Bernoulli, scienziati geniali tutti di qualche secolo fa, Daniel, uno di loro, si interessò di fluidi e mise giù una formula che ha avuto un'importanza fondamentale per lo sviluppo tecnologico in molti campi. Maurizio Melis vi racconta come andarono le cose. Si suppone che il giorno in cui padre e figlio dovessero vincere insieme una roba tipo il premio Nobel dovrebbe essere un gran giorno. Questo in una famiglia normale, naturalmente. Ma la famiglia di Daniel Bernoulli non era una famiglia normale. In poco meno di un secolo e mezzo, a partire dalla metà del 600 fino alla fine del 700, la famiglia Bernoulli sfornò, pensate un po', una dozzina di matematici e fisici di successo, alcuni dei quali di livello decisamente mondiale. Ma la famiglia ospitava, oltre al gene della matematica, per così dire, anche quello della discordia. Il padre di Daniel, Johann, e il fratello maggiore Jacob, più anziano di 13 anni, si insultarono pubblicamente per un decennio a colpi di articoli, insulti inviati ai colleghi per lettera e, pensate un po', volantini denigratori distribuiti in tutta Europa. E questo a causa di una rivalità nata quando Johann aveva iniziato a brillare, insomma, più del fratello, che pure gli aveva fatto da maestro. Quando nel 1734 Johann si vide assegnato il premio dell'Accademia Francese delle Scienze insieme al figlio Daniel, insomma il meccanismo psicologico scattò di nuovo, esplose un violento diverbio. Johann, che era stato maestro del figlio, era furibondo perché questi era ormai considerato un suo pari, mentre Daniel accusava il padre di non riconoscergli i propri meriti, il proprio valore. La lite degenerò al punto che poche ore dopo aver ricevuto il prestigioso premio, il povero Daniel si trovò letteralmente sbattuto fuori casa. Lui, che era appena tornato in famiglia a Basilea dopo 7 anni trascorsi all'Accademia Imperiale Russa di San Pietroburgo, di cui era nel frattempo divenuto una vera stella. Non ancora trentenne, infatti, Daniel Bernoulli aveva svelato niente meno che il segreto dei fluidi. Quando Daniel aveva iniziato il suo lavoro sui fluidi all'inizio del secolo, del 700, non esistevano metodi per misurare né la pressione né la velocità di un fluido dentro ad un qualsiasi condotto, non importa quale. Tutto ciò che si conosceva era il cosiddetto principio di continuità, secondo cui quando lungo il suo corso un fluido incontra delle strozzature, aumenta di velocità, come un fiume che quando è largo e profondo scorre piuttosto lento, mentre dove si restringe scorre più rapido e impetuoso. Ebbene, nel 1729 Daniel Bernoulli stava riflettendo su come fare a misurare la pressione del sangue, anche perché a quel tempo andavano di moda i salassi e molti pazienti morivano più per le cure che per la malattia. Insomma, serviva un metodo per capire quando si stava esagerando e misurare la pressione sembrava proprio una buona idea. A un certo punto Bernoulli ebbe un'intuizione, pensando al sangue che schizzava verso l'alto quando veniva bucata un'arteria. Si rese conto che misurando quell'altezza poteva misurare anche la pressione del sangue e così mise a punto una cannula di vetro che poteva essere infilata in un'arteria e misurando l'altezza della colonnina di sangue che si formava si poteva quindi misurare la pressione del sangue senza ovviamente dissanguare il povero paziente. Il metodo ebbe improvvisamente una larga diffusione, rendendo famoso Bernoulli in tutta Europa. Ma lo scienziato andò oltre. Con questo metodo misurò come cambiava la pressione in un condotto idraulico al variare della sua sezione e si rese conto che quando il condotto si restringeva e il fluido aumentava di velocità, sorprendentemente la pressione diminuiva e viceversa. Insomma, la pressione e la velocità del fluido e quindi la sua energia cinetica si compensavano, mentre la loro somma rimaneva costante. Fu così che Bernoulli pervenne all'equazione nota oggi appunto come principio di Bernoulli, che si può dire stia alla fluidodinamica, cioè la scienza che studia i fluidi in movimento, come le equazioni di Newton stanno alla dinamica dei pianeti. Nella sua carriera Daniel Bernoulli diede contributi in moltissimi altri settori della matematica e della fisica, vincendo per ben 10 volte il premio dell'Accademia Francese di Scienze, mentre il padre, Johann, che nutrì fino all'ultimo acredine per il figlio, finì poi per screditare se stesso agli occhi dei posteri. Post scriptum, infilarsi una cannuccia di vetro in un braccio per misurarsi la pressione è alquanto spiacevole. Ebbene, incredibilmente, il medico italiano Scipione Riva Rocci inventò lo sfigmomanometro, a cui siamo tutti abituati, solo a fine 800. Nel frattempo, che male! Ecco, potremmo avere in futuro in Italia un'altra famiglia tipo Bernoulli? Ma direi che da quello che sta per raccontarvi Chiara Albicocco le probabilità vanno diminuendo. Sono più di 3.000 le firme raccolte dall'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. Il loro scopo è quello di difendere e assicurare a tutti gli studenti l'educazione scientifica. Si sentono in dovere di farlo perché la riforma della scuola che verrà attuata dal Ministro della Pubblica Istruzione nel 2010 prevede una notevole riduzione delle ore di insegnamento delle materie scientifiche come biologia, chimica, fisica e così via. E qui con noi stasera c'è la Presidente dell'ANIS, l'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. Buonasera Anna Pascucci. Buonasera. Dunque ci tenete a precisare che le vostre non sono solo critiche, ma bensì proposte per migliorare la riforma? Ringrazio anzitutto per l'invito e per la possibilità di esprimere il nostro punto di vista. Abbiamo costituito insieme all'associazione un gruppo di lavoro che da mesi ha avuto il compito di analizzare la proposta del riordino dei cicli per la scuola secondaria secondo grado. L'analisi è stata non puramente polemica, come si può vincere dai documenti che sono pubblicati sul sito. Il vostro sito è www.anisn.it. E sul sito sono presenti documenti di analisi di punti di criticità, a nostro avviso, della riforma proposta. Questi documenti sono propositivi, non sono solo aridamente e ciecamente critici. In genere dal mondo degli insegnanti ci si aspetta proteste abbastanza critiche, purtroppo. La realtà è che bisogna poi andare a vedere se le nostre osservazioni troveranno terreno fertile. Ecco, entriamo nel dettaglio di quelle che sono le vostre proposte, perché si parla di una diminuzione di ore in questo riordino del 2010, una diminuzione delle ore dedicate alle scienze. Quindi voi che cosa proponete? Noi proponiamo anzitutto, esiste una diminuzione complessiva dell'orario scuola, senza andare a diminuire il numero di discipline insegnate. Quindi questo comporta necessariamente un bilanciamento, una distribuzione delle ore per tutte le discipline. E in particolare per le scienze, quello che accade è che anzitutto c'è una diminuzione essenzialmente di numero di ore di scienze sperimentali, fisica, chimica, scienze della vita e scienze della terra. Quindi una diminuzione del numero di ore di queste materie. Una diminuzione complessiva del numero di ore rispetto non tanto agli ordinamenti regolari, tra virgolette, che sono stati in vigore sinora, quanto piuttosto a una percentuale altissima di sperimentazione per le scienze che erano in atto nel nostro paese. In tutti i generi di scuole, cioè sia i licei che le scuole professionali? Il punto è che formalmente, di fatto, se noi andiamo a fare un calcolo del numero di ore di scienze nell'attuale ordinamento e in quello proposto, non c'è una diminuzione corrispondente. Non si tiene conto, e questa è la nostra critica, delle sperimentazioni che da anni hanno portato a eccellenti risultati nella formazione scientifica. E quindi non si capitalizzano delle buone esperienze, sia per quanto riguarda la quantità di ore, sia anche per l'estensione e soprattutto l'attenzione a una didattica laboratoriale, che non vuol dire laboratorio, ma che vuol dire un approccio investigativo che ha bisogno quindi di una quantità di ore congrua. In particolare poi sottolineiamo che per quanto riguarda l'istruzione tecnica non si sa ancora che cosa accadrà, ma in particolare nel biennio sosteniamo l'importanza di capitalizzare anche esperienze estere relative alle scienze integrate e quindi di non distribuire il monte ore per le scienze a insegnanti diversi. Questo vorrebbe dire che la quantità di ore per docente per classe sarebbe ridotta al massimo di 2 ore e quindi una enorme quantità di classi per il docente, una possibilità di intersezioni tanto auspicate che nei fatti diciamo significherebbe cercare di costituire o dei dipartimenti o altro, ma le fantasie sono una cosa, la realtà è un'altra e quindi questo vorrebbe dire cercare anche parallelamente di creare una di mettere su una formazione insegnante della quale insomma non si parla, una formazione di servizio, quindi le riforme dovrebbero andare pari pari con un piano di formazione docente. Va bene Presidente, in sintesi voi state anche promuovendo una raccolta firme sul vostro sito, mi sembra che siate arrivati insomma intorno alle 3.000 firme, che cosa chiedete al Ministro in sintesi? In sintesi chiediamo un'attenzione, lo diciamo anche in questa nostra proposta, che non è una protesta, come dicevo prima, che è stata anche sottoscritta fatta congiuntamente con altre associazioni di fisica e di chimica e che è firmata, se si vanno a vedere i nomi, da moltissimi componenti non solo del mondo della scuola ma anche del mondo della ricerca scientifica. Quindi in realtà quello che si chiede è un'attenzione per l'educazione scientifica, perché in ogni caso nel massimo della specializzazione italiana il bilanciamento del monte ore totale delle ore destinate alle materie umanistiche e alle materie scientifiche, nello scientifico tecnologico, è sempre a favore appunto delle materie umanistiche. Quindi l'altro punto è che è evidente anche una non attenzione a delle aree disciplinari, quali le scienze della vita e le scienze della terra, ancor più le scienze della terra, che sono ridotte ad essere insegnamenti per il biennio, soltanto per il biennio, il che vuol dire che non si forniscono ai giovani degli strumenti di decodificazione maturi, abbastanza maturi, per problemi climatici o ambientali o tanto dibattuti, ancor più poi le scienze della vita sono in una sorta di gerarchia delle scienze non considerate con lo spazio e la dignità diciamo di altre scienze sperimentali. Va bene Presidente, allora io le faccio in bocca al lupo e sicuramente ci risentiremo. La ringrazio molto. Grazie e buona serata. Arrivederci. Abbiamo concluso questa puntata. Per chi non sapesse come sono fatti i lamantini, si può andare al nostro sito www.moebiusonline.eu. Lì troverete un filmato che abbiamo selezionato fra i tanti. Naturalmente la cosa migliore è andare all'Acquario di Genova. E qui vi ricordo che dal prossimo weekend parte il Festival della Scienza di Genova. In internet trovate tutto il programma. Buona serata a tutti e a tutte. Noi ci sentiamo la prossima settimana.